curiosa, no te farás que fosa, e poi un mare di ella, chi la tiene ancora, e chi sta sogna amore. Nada para schifo, se può, e poi, l'umero di lasciare qualcuno.